Chill. No problem. You know. Apro questi occhi sul nuovo futuro. Nuova giornata, nuovo flash, nuovo joint, ti assicuro. Sai che poco carburo, ho rime pronte all'uso. Esco di casa, nuove fighe annuso. Fatto una vita al chiuso, nuove posizioni, sai, poi un'altra riga annuso. Ogni pensiero alla mia gente speciale, ogni preghiera per la gente che vale. Ti dico cresciti in un'altra visuale. Gira la testa uomo, giro mo in un'altra spirale. Claim, voto un altro rivale, se qui tu vuoi dominare. Fanculo il sesto senso, questo istinto animale. Io sono pronto a mirare, se tu sei pronto a scappare. Io sono il primo pronto a rischiare, anche se ho tutto sbagliato. Scaglio questa pietra su chi è senza peccato. Io sono il primo dannato, e i muri col filo spinato. C'è amore morto, sto campo minato. Dolore per chi c'è sempre stato, liquore per chi va ricordato. E per chi ha male parlato, è meglio che poi sia dimenticato. Da Lecce a Milano, unico codice, unico amore. Faccio un unico cannone, da un unico fiore uomo. Conosci qual è il nome? Mas, clitte illes. Ora conosci cosa la mia gente vuole. Tasche meno vuote, nuove banconote. Voglio pace per la strada quando manca il sole. Conosci qual è il nome? Mas, clitte illes. Ora conosci cosa la mia gente vuole. Gente fuori da guai, lo sai. I got mano, my money. Mano, my money. Andare via, un'altra chance, un'altra via. Un'altra lotta e non c'è colpa per chi ama parte e lascia la sua scia. Bocca strade di periferia, in testa più sogni di gloria. Senza gioie, non colori. Ora il mio mondo è tutto qui. Come Jay-Z, un dubbio ragionevole. Con chi? Restare per poi diventare king. Il colpevole, chi crede nelle favole. Poi non arriva a fine mese ed ogni pranzo pugni sulle tavole. Un rendezvous che torna nella mente, è un voodoo. Spillo nel cuore ma non sento niente. Baghdad, Africa, la loro morte, morte tua. Afghanistan, Kuwait, Gaza, Caracas, Mururo. I nostri sogni vanno oltre le forti quattro mura. Le tue porte chiuse perché forse ci sono troppi giù. L'altro miraggio, altra cura. Il salvataggio è mano di chi giura, ma le mani di chi sudano paura. Conosci quale nome? Mas, click the illes. Ora conosci cosa la mia gente vuole. Tasche meno vuote, nuove banconote. Voglio pace per la strada quando manca il sole. Conosci quale nome? Mas, click the illes. Ora conosci cosa la mia gente vuole. Gente fuori da guai, lo sai. I got mano, my money. Mano, my money, my money.